abbiamo detto in una meditazione molto importante e bella che ciascuno di noi è un mistero. Un mistero. E a volte il papà può dirlo di uno dei suoi figlioli: ho 4-5 figli, ma ce n'è uno che è un mistero. Non lo capisco. Scusi, siamo tutti un mistero. Tutti, tutti, tutti, tutti. Buoni e non buoni, cattivi o non cattivi, sani o malati, istruiti o ignoranti, siamo tutti un mistero. Proprio perché la nostra anima ha le profondità di Dio. In che senso? Che solo Dio può creare l'anima. L'anima è stata infusa nel nostro piccolissimo essere nell'istante del concepimento. E chi ha studiato biologia, anche gli elementi più elementari, sa che cosa vuol dire il concepimento. In quell'istante stesso Dio informa il corpo con l'anima e l'anima con il corpo. Il passamano dell'anima avviene direttamente da Dio. Perciò noi abbiamo dentro del divino. E se Dio è eterno, abbiamo dentro di noi dell'eterno. E se Dio è immenso, noi abbiamo di Dio dentro di noi un'esperienza abissale. Abissale. Che cos'è l'abisso? È una profondità che tu non riesci a scandagliare. Tu non riesci a misurarla. Nessuno può misurare gli abissi dell'anima. Perché bisognerebbe che sapesse misurare gli abissi di Dio. Ma qual è quello scienziato, dotto filosofo, ma ne manco Aristotele, pagano, ma che ha avuto delle illuminazioni bellissime, né San Tommaso d'Aquino, che l'Aristotele battezzato, per così dire. Nessuno, ne manco Sant'Agostino, che è la mente più eletta del cristianesimo. Nessuno ha potuto scandagliare gli abissi di Dio e perciò nessuno ha potuto scandagliare mai gli abissi di un'anima, della propria anima. Noi siamo davanti a un mistero, ciascuno di noi. E qualche volta vi siete accorti da certe idee che vi sono venute bellissime, grandissime, che non avete avuto il coraggio di dire a nessuno perché temevate che vi dicessero: ma te, cosa ti metti in testa di essere? Per non far brutta figura, per non passare per dei megalomani, megalomani che sono i cercatori della grandeur, la grandeur, per non far brutta figura non abbiamo detto a nessuno, però siamo accorti che dentro di noi, ci sono di quelle idee a volte. Mi è capitato di incontrare un individuo che, dopo gli 80 anni, ha avuto una malattia con degenza lunga all'ospedale. Quando mi hanno fatto sapere che finalmente l'avevano dimesso dall'ospedale, mi sono sentito in obbligo di andarlo a trovare, questo vecchio, oltre gli 80 anni, E lì, a tavola, così, ma mi ha tirato fuori tutte le idee di ristrutturazione delle sue case, di appartamenti, la ristrutturazione anche della stalla, di ambienti che appartenevano a lui e ai suoi figli e nipoti, ma come se fosse un ragazzo appena uscito dall'università, o geometra, o ingegnere, o architetto, a quegli anni lì. E devo rifare tutto il riscaldamento di quell'appartamento là e devo usare un altro accorgimento, un altro stile, un altro sistema. E io dicevo: ma guarda un po', come se non avesse 80 anni sulle spalle, ma ne avesse, sì e no, 30, 40. Eppure era uno stecco. L'hanno salvato in qualche modo, è campato ancora, ma è tornato dall'ospedale, che era uno stecco. Ma guarda, dico, in un corpo così ridotto ai minimi termini c'è ancora una mente, un ingegno, perché diceva cose giuste, aveva organizzati bene i suoi pensieri, i suoi progetti, e non è ancora parlato con il suo geometra di fiducia. Era un grande possidente, che meraviglia vedere un corpo così fatiscente, ridotto ai minimi termini, una mente, un'intelligenza, una capacità organizzativa, una volontà. È passato alla storia della Chiesa Leone XIII, morto a 93 anni, per oltre 25 anni, Papa, era malato di tubercolosi ossea, quindi era ridotto a uno stecco. Però hanno tentato di descrivere gli occhi che aveva Papa Leone XIII. A 90 anni aveva gli occhi belli di un ragazzo, di un fanciullo, Leone XIII, versatile, che se ne intendeva di tante cose, anche poeta, pastore d'anime, uno dei più grandi papi della Chiesa, tubercolosi ossea. E quando gli hanno fatto le feste per il suo 90° compleanno, a chi a nome di tutta la Chiesa gli faceva gli auguri ad multos annos, ancora tanti anni, Santo Padre, ha detto, sì, Signore vuole. Ecco, sì, come vuole la provvidenza di Dio. Io sono pronto. E da quel giorno lì ha avuto ancora altri 3 anni. È morto a 93 anni. È rimasto famoso nella storia della Chiesa perché anche col passare degli anni, anziché diventare meno intelligente, meno bravo, fiacco, inerme, senza voglia, ha fatto il leone, il nome che ha preso diventando Papa, Leone XIII, ha fatto il leone fino all'ultimo respiro, per così dire, anche se era ridotto a uno stecco. E gli occhi dicevano che nel fondo di quella piccola persona ci stava un'anima sconfinata.